Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e bentornati a Salva Danaio. L'industria del risparmio in questi anni difficili è stata analizzata in lungo e largo, dagli strumenti di investimento maggiormente diffusi fra le famiglie alla tipologia di consulenza di cui le famiglie si avvalgono per gestire risparmio e risorse finanziarie, alla reazione di fronte alla volatilità dei mercati, allo shock delle turbolenze che hanno investito i titoli di Stato, adesso settore un po' più sotto controllo. E nonostante si parli spesso di disaffezione dei risparmiatori dal mondo bancario e finanziario, chiaramente poi i numeri raccontano altro, non è che si possano portare i propri risparmi e tenerli sotto il materasso. Le famiglie italiane hanno cominciato ad intaccare il risparmio accantonato in passato, ma rimangono sempre fra le maggiori risparmiatrici d'Europa, pur nelle difficoltà degli ultimi tempi. C'è un settore che in passato ha registrato grande consenso fra i risparmiatori, poi l'aria è cambiata, ci sono stati anni di disinvestimenti costanti per una serie di ragioni, fra cui anche il cambiamento delle logiche di marketing e distributive da parte delle banche, ma è comunque ancora quello di cui parliamo oggi, un prodotto di investimento che molti risparmiatori scelgono per diversificare rischi e opportunità che si possono cogliere sui mercati. Parliamo del fondo comune di investimento e quindi più complessivamente del settore del risparmio gestito. L'industria dei fondi di investimento. L'annus horribilis è stato il 2008, ce lo ricordiamo tutti per tante ragioni, la fuga degli investitori si è poi attenuata negli anni seguenti, il 2011 si è chiuso di nuovo in rosso con oltre 40 miliardi di euro riscattati, per l'anno in corso si prevede un miglioramento e a fornire un nuovo impulso al comparto. Potrebbe essere anche la recente riforma della gestione del risparmio che equipara i fondi di diritto italiano a quelli esteri. Comunque questo è un tema abbastanza specifico, ma di questo e di tanto altro ancora e dello stato di salute di questi prodotti di investimento si parlerà al Salone del Risparmio che si svolgerà a Milano dal 18 al 20 aprile, che sarà aperto anche al pubblico indistinto e quindi tutti, se vorrete, potrete anche toccare con mano queste tematiche, è un modo di dire naturalmente, ma sicuramente potrete prendere visione direttamente anche di tutto ciò che sta cambiando, perché ci saranno tante iniziative, tante tavole rotonde da seguire direttamente. Noi di tutto questo parleremo questa mattina con il direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli. Dottor Galli, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Grazie. Ragionavamo prima a microfoni spenti che da ben un anno che non viene a trovarci e l'ultima visita ce l'aveva fatta proprio in concomitanza con il salone dello scorso anno. Beh, è sempre un piacere essere qua con voi. Molto bene, allora questa mattina la metterò a disposizione dei nostri ascoltatori che potranno chiamarci all'800 24 00 24 oppure scriverci alle 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it oppure potete andare anche a curiosare sul nostro profilo Facebook che è naturalmente all'indirizzo salvadanaio-radio24. E peraltro stamattina, preannunciando la nostra trasmissione, c'è già chi ci ha scritto, Vincenzo, lo salutiamo, che già mette in luce un difetto dell'industria del risparmio gestito, lui in qualche maniera lo identifica in questo modo, tema che peraltro il settore conosce molto bene perché già negli anni passati è stata molto forte la discussione su questo argomento, cioè perché dobbiamo pagare una persona che gestisce il nostro risparmio quando chiaramente produce dei buoni risultati, ma se i risultati non sono buoni perché in qualche maniera anche la remunerazione nei confronti di questo professionista non viaggia di pari passo. Sono sicura che Fabio Galli ci commenterà anche questo aspetto. Io intanto, però, prima di partire su questo argomento di questa mattina, vi racconto come stanno andando le cose in borsa. Non vanno benissimo perché Milano continua a perdere terreno, adesso è arrivata a cedere lo 0,90% sul FTSE MIB e a distanza, anche se sono negative, seguono le altre piazze: Parigi meno 0,4, Francoforte meno 0,05, Londra meno 0,23%. A Milano stanno ritornando le vendite su tutti i titoli bancari. Per la Popolare di Milano oggi nuova giornata meno 4,55% per le motivazioni che abbiamo detto anche nel giornale radio. C'è Standard & Poor's che è intervenuta, c'è una indagine della Procura della Repubblica sulla fusione tra Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria, che poi sono state inglobate sotto appunto la stessa Pop Milano, e queste novità appunto giudiziarie non fanno bene al gruppo, è evidente. Popolare, il Banco Popolare anche c'è del 3,20%, Tenaris meno 3,11%, sono in calo anche le altre due big, Intesa San Paolo meno 2,78%, Unicredit meno 2 e poi STM meno 1,89%. Segna invece un più 3,25% Autogrill, Mediaset che esce da Endemol guadagna il 2,65%, bene anche oggi il settore del lusso più 2,19%, Meccanica era partita male con un ribasso stamattina superiore al punto percentuale, adesso invece recupera l'1,44% dopo che c'è stato un giudizio positivo da parte degli analisti di HSBC. Euro su dollaro a 1,3342, abbiamo lo spread a 330 punti base. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo dell'industria del risparmio gestito, facciamo un punto della situazione anche preallertando i nostri ascoltatori dell'inizio fra qualche giorno, il 18 aprile esattamente, del Salone del Risparmio. Non è certo facile dare in gestione i propri soldi a un estraneo. Pur sapendo che investire i risparmi è importante, può offrire opportunità ed evitare che perdano di valore, la scelta resta delicata. Non può essere fatta alla leggera. Ed è questione di fiducia, riflessione e buoni consigli. Se poi ci si mette in mezzo anche la crisi, che rende più difficile mettere da parte un gruzzolo e al tempo stesso fa venire voglia di conservarlo sotto il materasso, le cose si fanno ancora più complicate. Lo dimostrano anche i numeri, con i dati relativi alle famiglie italiane sulla raccolta del risparmio gestito, che ha iniziato a perdere colpi già nel 2006, per toccare, non sorprenderà, nel 2008, un vero e proprio annus horribilis. 9 miliardi di euro riscattati nel 2006, 52 nel 2007, ben 140 nell'anno del crack Lehman. Le cose avevano iniziato ad andare meglio nel biennio successivo, ma il 2011 ha visto un ritorno del segno meno per le società che si occupano della gestione del risparmio. Una schiarita potrebbe arrivare con il 2012, per il quale si prevede un'inversione di tendenza. Certo, nei primi due mesi si è comunque registrata una perdita pari a 6,7 miliardi di euro, ma rispetto a gennaio, i dati di febbraio sono un po' più incoraggianti. Il settore, dopo aver affrontato negli ultimi anni pesanti domande di riscatto, si prepara quindi anche in Italia a rialzare la testa e a fornire un nuovo impulso al comparto. Potrebbe essere anche la recente riforma della gestione del risparmio, che equipari i fondi di diritto italiano a quelli esteri. Perché una clientela spaventata dalla crisi ritorni a fidarsi, assume un'importanza sempre maggiore la conoscenza degli strumenti finanziari, l'accompagnamento ad una scelta consapevole e l'assistenza prima e dopo la vendita da parte degli intermediari, nell'ottica di un dialogo trasparente con il gestore. 800 24 00 24, numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori. Oggi quanto raccoglie l'industria del risparmio gestito in Italia, dottor Galli? Beh, l'industria è molto vicino ai 1.000 miliardi, quindi stiamo parlando di una bella fetta del nostro patrimonio finanziario. Glielo chiedo subito perché vorrei rispondere a questo ascoltatore che ci contesta. Come fate a parlare di risparmio oggigiorno? Parlate di cose più importanti, non assecondate sempre il mondo delle banche. Allora, le ho fatto raccontare questa cifra perché pur avendo l'opportunità, anche se vogliamo, di sottolineare i limiti dell'industria del risparmio gestito, tutte le problematiche che hanno riguardato questo settore negli anni passati, c'è però ancora una fetta molto ampia di famiglie italiane che affida il proprio risparmio ai collettori, chiamiamoli così, i fondi di investimento, per cui anche per queste famiglie credo che sia importante che le rispettiamo e che quindi raccontiamo loro come stanno andando anche il questo loro... Infatti non è un tema assolutamente né da banche né da ricchi, è un tema che riguarda più di 10 famiglie di italiani che utilizzano i fondi, le gestioni di investimenti, e la cifra media non è una cifra da paperoni, cioè si tratta dei nostri risparmi, chi ha 30, 50 mila, 100 mila euro, quindi stiamo parlando veramente delle normali famiglie che si rendono conto che dopo aver comprato la casa, in molti casi, perché questo è ovviamente il pensiero principe di tutti noi. Non ce lo ricordi con l'IMU? Già prima parlavamo di come quantificare appunto quello che dovremmo pagare a giugno. Ricordo gli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo, mi scusi dottor Galli, non è che ci siamo dimenticati di questo argomento in questi giorni, ci andiamo la prossima settimana, tanto ormai non cambia nulla, per fortuna abbiamo capito che almeno pagheremo l'aliquota minima come acconto a giugno. Prego. No, quindi sicuramente in realtà quello che si vede è che questa massa di risparmio, in particolare quello che è stato messo in un prodotto liquido come il fondo ha aiutato molte famiglie anche ad affrontare questi anni di crisi, perché è chiaro che gli italiani che mettevano da parte quasi il 18-20% del proprio reddito soltanto 10 anni fa, oggi hanno meno capacità di risparmio, è una cosa che tutti noi conosciamo bene, e quindi in parte si spiega perché quei soldi messi da parte in altro momento tornano utili oggi. Questo spiega anche il rallentamento della raccolta. Cioè c'è un fenomeno di lungo termine per cui le famiglie oggi riescono a risparmiare di meno, ma questo rende più importante investire bene. Perché è chiaro che mettere da parte quei soldi e farli rendere bene vuol dire tra 20, 30, 40 anni avere un tenore di vita diverso. Non ci dimentichiamo che sotto l'industria del risparmio gestito ci sono anche i fondi pensione, per cui a maggior ragione dobbiamo assolutamente e tra l'altro mantenere appunto il rispetto per... I fondi pensione possono avere una grandissima crescita e questo è un po', sono un po' la Cenerentola del nostro sistema, ce ne dimentichiamo, ma in realtà i fondi pensione stanno funzionando bene. Chi ha scelto di sottoscrivere i fondi pensione attraverso il proprio datore di lavoro o come lavoratore autonomo, in realtà si vede che i fondi pensione funzionano in maniera solida, anche perché essendo strumenti collettivi hanno dei costi più contenuti. Io invito tutti a fare una riflessione, chi non avesse aderito a un fondo pensione a pensarci, perché è chiaro che farà la differenza avere quel patrimonio in cui molto spesso uno si riesce a dimenticare, perché il fondo pensione funziona molto bene perché si mette da parte qualcosa ogni mese, non ce ne se ne rende conto, non è una decisione che si deve prendere in continuo con quello che è lo stress. Ora, la vostra scheda era fatta molto molto bene, perché è vero che ci sono sia l'elemento di fiducia che conta tantissimo e quindi è difficile oggi affrontare l'investimento, ma è anche vero che c'è l'elemento della competenza, cioè capire. Il Salone del Risparmio, che è questo evento che durerà 3 giorni, organizzato da noi presso l'Università Bocconi, con una partecipazione strabiliante quest'anno, il terzo anno, ci sono più di 8.000 persone iscritte, ci sono più di 100 conferenze, c'è veramente una varietà di temi, di occasioni per approfondire queste cose, e serve perché l'educazione finanziaria è la base per affrontare, appunto, per avere un'idea di come... anche dialogare con i propri consulenti, con chi ti propone un investimento. Infatti ha detto la cosa davvero fondamentale, perché molto spesso, qualche volta, quando siamo scontenti anche di come rende per esempio il prodotto di investimento che abbiamo scelto per poter accantonare al meglio le nostre risorse, siamo naturalmente scontenti, ma a volte non siamo in grado di dirlo nella maniera più serena possibile al nostro consulente, magari perché abbiamo fatto in precedenza una chiacchierata fatta male, abbiamo spiegato bene quello che ci aspettavamo dal tipo di prodotto scelto, e quindi questo credo che sia proprio l'elemento centrale. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi abbiamo a Salvadanaio Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, perché questa società, che rappresenta le società di gestione del risparmio in Italia, organizza dal 18 al 20 aprile a Milano il Salone del Risparmio, terza edizione, giusto, dottor Galli? Tra l'altro, negli anni passati, partito un po' in sordina, il Salone ha riscosso un consenso davvero enorme, chiaramente da parte delle società di gestione del risparmio, che per loro rappresenta anche una vetrina importante per discutere, per farsi vedere, ma anche dal pubblico indistinto. Come sarà possibile partecipare da parte delle persone che magari potranno arrivare anche da fuori di Milano, se lo vorranno? Andate sul sito ilsalonedelrisparmio.it, troverete il programma, vedrete che il programma offre una tale quantità di spunti, di occasioni per vedere anche le persone poi in carne e ossa che si occupano di questo servizio, di questa cosa. Tenete conto che tra l'altro il terzo giorno è dedicato alle scuole, ci sono quasi 2.000 studenti che verranno, che hanno partecipato a dei concorsi anche per sviluppare delle idee relative all'investimento, al risparmio. C'è secondo me in realtà tutta una voglia di capire, nel senso che investire è qualcosa che ci proietta sia verso il futuro sia verso ciò che è anche, va molto al di là della nostra esperienza di tutti i giorni. Oggi se ancora i nostri nonni potevano andare a comprarsi magari un buono postale, potevano mettere i soldi sotto il materasso, oggi non possiamo costruire il nostro futuro semplicemente guardandoci intorno, anzi sappiamo tutti che dobbiamo imparare a, se non altro, ad avere la fiducia e la comprensione di mercati molto lontani dal nostro, quindi andare verso i mercati emergenti, che più che emergenti sono largamente emersi sì, e che sono anche molto forti. Allora, è chiaro che forse già ancora i nostri genitori potevano decidere, se avevano del tempo da dedicare, di fare un po' da sé, provare a vedere se comprare il titolo Fiat, una banca. Questo poteva avere un senso 30 anni fa, anche se non era facile. Oggi questo è veramente del tutto superato. L'unico modo per riuscire a far rendere i propri risparmi è quello di avere dei portafogli molto molto diversificati, su due mercati che sono molto distanti dalla nostra esperienza di tutti, certo, i giorni. E questa non è una ricetta che noi forniamo perché vogliamo sponsorizzare il mondo dei fondi comuni di investimento, perché non ci interessa capire quali sono le dinamiche di questi strumenti di risparmio. Questa è una regola che vale perché abbiamo visto che quando si mettono tutte le uova in un unico paniere si corrono dei rischi molto alti e magari può capitare proprio di essersi imbattuti in quel soggetto che è in difficoltà e che fa vanificare tutto il nostro risparmio. Lehman Brothers insegna, insomma. Sì, tra l'altro Lehman Brothers è un problema, giustamente, che il risparmio gestito non ha vissuto, perché il risparmio gestito è proprio quello di andare a mettere i propri risparmi in una maniera molto diversificata su società che vengono analizzate, e non solo società. Quindi, per esempio, noi italiani giustamente guardiamo molto all'investimento anche in titoli di Stato. Mm-hmm. Va benissimo. Ed è giusto che una parte del nostro portafoglio comprendiamo meglio le relazioni della politica, chi ha avuto la saldezza di nervi di farlo a metà novembre ha avuto grandissime soddisfazioni, però è molto diverso comprarsi una sola emissione che poi può diventare illiquida, può avere un suo percorso più o meno accidentato, o comprarsi tutto un portafoglio con dentro decine di titoli di Stato diversi, avere la certezza che in quei 2 giorni, 3 giorni di data valuta si possono liquidare se si ha bisogno delle disponibilità. Cioè, il fondo è uno strumento che consente allo stesso tempo di avere la chiarezza, la certezza di una gestione professionale, i soldi sono in mano a una banca depositaria e non ci sono mai stati problemi, quindi non ci sono tutti i problemi della singola società. È chiaro che c'è una grandissima scelta di prodotto e di servizio e bisogna giustamente farsi un'idea per scegliere la migliore. Quindi chiunque dica io ho avuto, non sono soddisfatto o quant'altro, ecco, questo è un mondo estremamente competitivo. C'è tantissima concorrenza, vale la pena guardarsi in giro, così come riconoscere anche il merito quando si ha un buon promotore, un buon consulente, un buon prodotto, capire che non è affatto facile, soprattutto in questi ultimi 10 anni è stato molto difficile fare buoni investimenti. La regola di base in ogni caso è sempre quella, guardare a un orizzonte temporale ragionevole, quindi non si può pensare di investire bene se si vuole entrare o uscire nel giro di 2 settimane, quelli sono giochi d'azzardo, quindi bisogna guardare nel tempo e avere disciplina e regolarità e soprattutto diversificare moltissimo. Quindi oggi noi una certa percentuale dei nostri investimenti devono andare verso il Brasile, verso i paesi dell'est, verso mercati che non ci possiamo immaginare. Non è un caso che i cinesi investano molto in Africa e da circa 3, 4, 5 anni, per esempio, ci sono fondi che incominciano a specializzarsi in investimenti in Africa. Si possono fare ottimi investimenti, ma certamente io da solo non potrei giudicare dove e come investire. Certamente, e soprattutto pur dovendo sempre mantenere un'attenzione costante sulle modalità con cui il professionista a cui affidiamo il nostro risparmio gestisce questo denaro, non dobbiamo neanche avere l'ossessione di stare a guardare ogni giorno qual è l'andamento, quindi insomma una vigilanza costante ma anche responsabile. Prima di sentire la domanda del primo ascoltatore, che è Luigi da Monza, però dottor Galli, vorrei chiederle: i fondi comuni di investimento negli ultimi anni nel nostro paese hanno avuto delle vicende piuttosto travagliate in termini numerici, perché i riscatti da parte degli investitori sono stati molti, molto importanti. C'è stato l'anno nero, il 2008, meno 140, poi 2 anni di stabilità, addirittura il 2010 che si chiuso con un dato positivo, quindi 1 miliardo, no? Il saldo era positivo per quello che riguarda, sì, anche, quell'anno. È anche maggiore, nel senso che in realtà ci sono parti dell'industria che vanno molto bene. Per esempio, anche durante tutti questi anni le reti di promotori hanno mantenuto la barra, quindi non hanno mai avuto le raccolte negative che si sono registrate nell'ambito bancario. Intanto, giusto per la chiarezza dei nostri ascoltatori, un fondo che raccoglie di meno di un altro non è questo quello che rileva per quanto riguarda la performance, il rendimento. Io posso avere un fondo che magari per una serie di ragioni i partecipanti a quel fondo hanno riscattato dei denari perché ne avevano bisogno, ma il fondo va anche molto bene, quindi sono due concetti diversi. Sicuramente è vero che l'industria ha avuto delle fasi di assestamento. Questo è un problema più forte in Italia, ma che si verifica in molti paesi. So che la Francia è stata la maglia nera in assoluto degli ultimi anni. Ma no? C'è un problema proprio di fondo. Cioè, se lei prende un fondo ottimo, noi sappiamo, possiamo andare a vedere sulle migliaia di fondi, andiamo a prendere un fondo ottimo. Per esempio, un fondo che in questi ultimi 10 anni ha avuto dei rendimenti complessivamente superiori al 30 o 40%. E andiamo a vedere... Ce ne sono stati, dottor Cavi? Ce ne sono stati. Ah, sì? Quelli famosi sui paesi emergenti. Non solo. Anche più vicino. Ci sono... Sì, se lei prende un fondo ottimo e poi va a vedere cosa è successo veramente al risparmiatore che ha comprato, lei trova che molti risparmiatori hanno comprato magari nel 99-2000, quindi sul picco di mercato, si sono spaventati magari nel 2002-2003 e sono usciti quando il fondo hanno ricomprato nel 2007 e poi magari hanno di nuovo rivenduto quando nel 2009 sembrava di esserci la crisi. Un risparmiatore che magari ha fatto avanti e indietro su quel fondo, questo che sarebbe un caso paradossale ma si sono verificati, ha avuto un'esperienza terribile di investimento, ma non è il gestore che ha gestito male il fondo, è stato un certo modo di affrontare il panico o l'euforia dell'investimento per cui che funziona molto male. Questa è un'esperienza che molti, molti clienti purtroppo hanno. Il segreto è assolutamente non seguire queste fasi di ciclo, quindi sembrava che l'Italia andasse a fondo e morisse a ottobre e nessuno voleva mettere un euro dentro un BTP, ecco, questo è esattamente il modo di investire che non si deve seguire. Uno deve fare un ragionamento più di lungo periodo, decidere che il 20-30% dei propri risparmi può andare in titoli di Stato, non si investe tutto all'improvviso, si investe disciplinatamente e possibilmente la cosa migliore è con uno o più buoni fondi che sono specializzati in quel. Allora, questo è tutto un altro approccio, è più difficile, se ne può parlare con le persone che vi seguono. Il consiglio è sempre parlare con qualcuno che se ne occupa in maniera professionale, insomma anche un po' il sentito dire non c'è. Non credete a chi vi dice che ci sono le dritte di mercato, perché le dritte di mercato, quella società farà il più 20%, sono tutte cose che... E soprattutto chi c'ha quella vera magari rischia anche di commettere un reato piuttosto importante che l'aggiotaggio, l'insider. Ma comunque non è questa, ma non sono cose reali. Cioè la cosa reale è avere quella disciplina e quella anche capacità di guardare verso il lungo periodo, di sapere un po'... dosare, come dicevi giustamente un secondo fa, perdonami se ti do del tu, ma ci conosciamo da tanto tempo, dosare anche la capacità di controllo, di far domande, ma anche la capacità di dire che un rendimento deve mostrarsi in un certo periodo di tempo. E in realtà diciamo, il modo in cui si vive l'investimento cambia radicalmente. Ora, tutti questi temi vedrete che dentro il salone sono trattati, perché tutta la psicologia dell'investimento, che è un tema fondamentale sia per chi questi servizi li propone, sia per chi deve affrontare la decisione di investimento da cliente, da risparmiatore, sono al cuore della finanza contemporanea. Si parla molto di più di questo, cioè del fatto che noi è difficile prendere buone decisioni e soprattutto essere coerenti nel tempo, è estremamente difficile. Allora bisogna sapere quali sono le cose che naturalmente, emotivamente ci vengono, noi tendiamo a fare per evitare quel tipo di errori. C'è un altro aspetto che ha determinato anche queste cifre in rosso degli ultimi anni, che per correttezza magari Fabio Galli evita di enfatizzare, anche se per la verità ci siamo soffermati anche su questo aspetto a lungo in altre puntate del passato, forse proprio quando commentavamo questo meno 140 miliardi del 2008, meno 3 miliardi del 2009, meno 52 del 2007. Il tema è che molte banche, per poter fare raccolte in un momento in cui c'era il credit crunch, dirottavano anche i risparmiatori su altri strumenti di investimento, le proprie obbligazioni, magari suggerendo loro di disinvestire dal fondo, perché anche questo, dottor Galli, è successo. Questa è una cosa certamente che è avvenuta. È anche vero che esiste, come dire, ciò che uno fa per spirito di sopravvivenza lo fa lo Stato italiano, l'ha fatto lo Stato italiano, quello oggi come oggi ci troviamo tutti a pagare veramente un caro prezzo alla crisi finanziaria in termini di tassazione, probabilmente è l'unico modo per riuscire a riportare la calma anche rispetto alla percezione che si ha dell'Italia. E una volta usciti da questo, diciamo, da questo meccanismo di sospetto nei confronti del nostro paese, probabilmente potremo tornare a ragionare in maniera più, diciamo, guardando con più fiducia alla crescita e potendo prendere decisioni che sono meno dettate dall'emergenza. Ora, le banche hanno avuto sicuramente due momenti molto difficili, come ricordavi, nel 2008 e poi ancora l'autunno scorso, molto più per riflesso, per le difficoltà, diciamo, complessive del paese, quindi non... l'hanno affrontato chiedendo alla propria clientela di versare direttamente dei soldi sul loro patrimonio, quindi di prendere, le banche hanno preso a prestito direttamente dei soldi. Ora, non in tutti i casi questo come dire, è una decisione sbagliata per un cliente. Certo, uno deve pensare bene quando gli si propone un prodotto se veramente è l'alternativa giusta per sé o se invece non deve insistere su qualcosa di più diversificato. Certo, di più. Naturalmente se una banca dice guarda il fondo di investimento è più sensibile alle oscillazioni del mercato, se ti do la mia obbligazione bancaria naturalmente tu hai un rendimento garantito, però magari rischio emittente lo si sottace un po' di più, insomma ci sono rischi e rischi connessi in relazione allo strumento di investimento che si il tema dell'andamento, sceglie, però, Ecco, il tema dell'andamento è un ottimo tema riguardo a quell'aspetto dell'emotività. Quando un tempo si compravano i titoli di Stato ci si dimenticava di che valore avessero, non si leggeva credo nemmeno sul quotidiano, nemmeno sul Sole 24 Ore questo, e si viveva per 10, 15, 20 anni e si ritrovava poi il capitale riversato senza sapere che durante... si andava ogni tanto in banca a rinnovarlo, no? E si passava attraverso delle crisi terribili, pensiamo alla crisi valutaria del 92, insomma dei momenti molto difficili in cui i titoli di Stato in realtà precipitavano a valori del 30-20% sotto. Oggi invece abbiamo questa ipersensibilità all'andamento di breve, quindi siamo abituati a leggere i numeri, a guardare i numeri costantemente. Questo un po' ci rende più deboli nelle nostre decisioni, perché ci dà molta ansia, molto stress e in alcuni casi non ci consente in realtà di guardare a lungo periodo. Guardi, c'è un altro fattore che agita un po' i nostri ascoltatori, e cioè il fatto di non sapere bene dove il gestore a cui si affidano i propri risparmi mette questo denaro. Luigi da Monza, buongiorno. Buongiorno signora dottoressa. Sì, no, ma ascolti. Guardi, ascolti, né professoressa niente. Luigi, mi dà un minutino di pazienza, sentiamo i suggerimenti, perché in viaggio ho aspettato tanto, le faccio fare, ha fatto 30, le faccio fare 31, come si dice. Mi aspetta un attimo? Sì. Benissimo, a tra poco. Luigi, eccoci a lei, ci dica tutto. Dottoressa, allora, volevo chiedere se si può trasferire solo una parte alla gestione patrimoniale, magari obbligazioni in portafoglio presso la banca e portare le azioni che sono quelle che perdono. Cioè, allora, intanto lei ha una gestione patrimoniale, quindi non ha un fondo reinvestimento semplice, è una cosa un po' più complessa, poi dopo lo spieghiamo con Fabio. Il dossier titoli, no? Sì. Composto da obbligazioni e azioni e uno o due ETF. E poi dopo, però, dato che la parte che perde di più è quella azionaria, mi è stato proposto dalla banca, mettilo in questo fondo, in questa gestione patrimoniale. E mi hanno detto, guarda che quando te fai questo passaggio qua, probabilmente il gestore ti smonta tutto il tuo portafoglio. Se c'hai azioni della società X, allora non interessa avere quelle lì perché perdono tanto, te lo ribaltano. Come un calzino. E quindi Luigi, lei che cosa l'ha lasciata un po' perplessa di questa proposta? Che non hai più, prima di tutto perché sposi poi il gestore, la banca, e da lì non esci più. Se io dovessi uscire oggi dalla mia banca in perdita, vado ad un'altra banca e mi porto dietro il mio portafoglio senza chiedere niente a nessuno. Invece lì, essendo nell'ambito azionario, dicono sempre che ci vanno degli anni, non so se 3, 4, 5 anni di pazienza per vedere i risultati, però poi dopo il gestore c'ha la possibilità e la facoltà, in base al mandato che gli dà, di fare quello che vuole del patrimonio che gli affidi. Beh, intanto nessuno di noi firma segni in bianco, Luigi, e quindi lei ha sempre tutto il diritto di avere delle informazioni e di avere la massima trasparenza da parte dell'intermediario che ha scelto su come gestisce il suo risparmio. Detto questo, facciamo un po' di ABC, Fabio Galli. La gestione patrimoniale, intanto, che cos'è? Perché il nostro ascoltatore ha un portafoglio un po' più articolato rispetto in che invece magari investe solo in un fondo di investimento o due fondi di investimento. Sì, io non conosco ovviamente nel dettaglio la situazione, però credo che sia molto interessante il problema che mi sembra questo ascoltatore sembra avere. Prima di tutto, appunto, avendo un portafoglio che sarà già abbastanza diversificato perché ha dentro azioni, obbligazioni, ho sentito anche che ha degli ETF, intanto portarlo in una gestione ha già un vantaggio fiscale di compensare direttamente perdite con utili, quindi già si trova in una situazione fiscalmente di vantaggio. Non c'è una perdita, innanzitutto in qualsiasi momento, anche rispetto a un mandato di gestione, si può cambiare idea, quindi si può decidere di interromperlo, di riprendersi i propri titoli, i propri strumenti finanziari, di portarli sul proprio dossier titoli, non c'è nessun vincolo di quel tipo. Si mantiene il diritto, se il contratto lo prevede, ma è un obbligo anche di legge, di pretendere, per esempio, se uno ha in particolare un interesse per un certo strumento finanziario, a volerlo comprare, quindi di dare un ordine di acquisto in particolare. Certo, normalmente se lei decide di passare dal mondo del fai da te, dove io mi scelgo tutto, devo capire tutto, devo seguire tutto, ed è molto difficile perché è chiaro che quando si superano i pochi titoli, quando si incominciano ad avere 10 titoli in portafoglio, 5, 10 titoli, magari 15, o uno lo fa di professione o si perde il controllo della situazione. Allora, il vantaggio di avere un gestore è che i gestori lo fanno per mestiere e per una grande massa di denaro, e quindi entrano nel merito di ciascuna azienda, del perché investire in quell'azienda. Quindi, in qualche modo, ecco, il nostro ascoltatore sembrava soffrire dell'idea che il gestore prendesse delle decisioni per lui, ma questo è esattamente il motivo per cui io vorrei pagare il mio gestore. Che lui decida per me, nell'ambito, se io ho deciso che voglio un portafoglio bilanciato, 50% azioni, 50% obbligazioni, magari solo denominati in euro per non avere un rischio di cambio, è proprio quello che mi aspetto dal gestore, che lui prenda le decisioni per me. Quindi non lo subisco la decisione, anzi, per fortuna il gestore prende delle decisioni. Però voglio dire, è anche vero che abbiamo libero arbitrio e la facoltà di scegliere. Se lui ha già notato che questi aspetti non lo soddisfano completamente, non lo convincono completamente nell'apertura di questo nuovo rapporto con l'intermediario, potrà sicuramente cambiare idea in ogni momento. E quindi mantenere il suo regime di amministrato sostanzialmente, piuttosto che passare al gestito. Secondo me, giustamente, uno passa al gestito perché è un atto, diciamo, di fiducia. È come curarsi da sé, perché uno pensa di poter scegliere le medicine, aver letto l'enciclopedia medica. Ecco, io penso che in molti casi è molto meglio avere un buon medico. Poi è chiaro che il medico dialogherà con me, mi dirà alcune cose, perché le ha fatte, come le ha fatte. In alcuni casi si cerca la strada migliore per riuscire ad ottenere dei risultati, però è chiaro che è un atto di fiducia, come con qualsiasi professionista. Io devo fidarmi, quindi se già ho questo timore, io non andrei da un medico che non prende delle decisioni. Io voglio un medico che in realtà le decisioni le prende con chiarezza e me le spiega. Dottor Galli, tra l'altro, guardi, tra due minuti devo ridare la linea alla regia perché la trasmissione è già terminata. Per chiudere con una domanda molto semplice che si fanno molti ascoltatori, in qualche maniera me la stanno argomentando al 349-238-6666. Borsa Italiana non sta andando molto bene. Sulla scia di questa debolezza io decido oggi di puntare su un fondo azionario che appunto mi replichi in qualche maniera l'andamento del mercato italiano. Non dico l'ETF, è proprio un fondo azionario italiano. Io so quali sono le società sul quale il gestore che scelgo investe, perché molti temono addirittura che io dia il soldo, appunto i soldi, il mio risparmio al professionista, al gestore di questo fondo di investimento, ma poi non ne sono in grado di poter capire che tipo di società sulle quali punta, sulle quali investe. Invece il prospetto informativo del fondo ci dà chiarezza e cristallizza sostanzialmente la composizione del fondo. No, allora, il rendiconto, cioè lei sa, dopo che il gestore ha preso certe decisioni, lei con una certa periodicità ne ha notizia, perché in realtà il gestore non può concentrare il rischio, quindi deve comprare almeno 10 titoli su un fondo. Bisogna comprare però, almeno, se non sbaglio, si può conoscere il delle prime 10 società sulle quali un fondo investe. Ogni 6 mesi lei ha comunque, può avere notizia di quali sono i principali investimenti. Ci sono molte società che vanno ben al di là di questo elemento di trasparenza, cioè che le mettono a disposizione proprio l'intero portafoglio. L'obbligo minimo qual è? I primi 10 titoli ogni 6 mesi, e questa è una normativa europea, quindi è uguale in tutta Europa. È importante che però una persona sappia per quale motivo alcuni grossi fondi sono tengono molto alla riservatezza prima che l'investimento sia andato a buon termine. Perché ci sarebbero magari invece delle attività di mercato su dei titoli liquidi che potrebbero in realtà creare dei problemi. Quindi è importante che il gestore possa agire liberamente, tranquillamente, e poi porti dei risultati. Quello che noi conosciamo tutti i giorni, sempre, è quanto vale il nostro fondo. Quindi noi abbiamo sempre la certezza che il nostro fondo oggi vale quella cifra, ha quel valore. Questo è importante perché non ci sono fenomeni per cui all'improvviso è sparita la cassa. Cioè. E insomma, chissà che a tutte queste domande non si trovi una risposta per chi vorrà partecipare al Salone del Risparmio, in programma dal 18 al 20 aprile a Milano. Non ho ricordato dove, 2 anni fa era in borsa, invece da 2 anni dove lo fate? Presso l'Università Bocconi. Benissimo. È anche un'occasione per vedere un bellissimo campus. Un bel edificio, è vero. Andiamo all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con INPS e pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni, il tema che abbiamo iniziato ad affrontare ieri che ci accompagnerà per tutta la settimana sono le novità che riguardano le pensioni di vecchiaia. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con INPS. L'età pensionabile da quest'anno continuerà ad aumentare progressivamente fino a raggiungere per tutti i 66 anni nel 2018. Come si differenzia il meccanismo dell'aumento per le varie tipologie di lavoratori? L'età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per i diversi settori. Il processo di convergenza verso un'età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento. Dal 1 gennaio scorso, gli uomini del settore privato, dipendenti e autonomi, e gli uomini e le donne del settore pubblico possono avere la pensione di vecchiaia al compimento di 66 anni. L'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato, invece, e delle lavoratrici autonome, per il 2012 è fissata rispettivamente a 62 e 63 anni e 6 mesi e verrà elevata di anno in anno fino ad arrivare progressivamente, nel 2018, alla completa equiparazione a quota 66 anni per tutti. Dal 2013, poi, l'età pensionabile verrà adeguata all'evoluzione della cosiddetta aspettativa o speranza di vita, calcolata dall'Istat. È verosimile così che al 2018 l'età pensionabile per tutti sia di 66 anni e 7 mesi. E anche per oggi Salva Danaio termina qui. Fabio Galli, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo più avanti, ancora magari per fare un punto sul Salone del Risparmio. Grazie a voi per l'invito e buona poi giornata. Vi aspettiamo tutti al Salone. E buon lavoro. C'è un sito naturalmente sul Salone del Risparmio, andatelo a cercare su internet. Noi intanto abbiamo terminato, ci sentiamo domani. Buona giornata. We'll be right back.